Focus Economia. Con Deborah Rosciani. Buona serata a tutti da Deborah Rosciani, bentrovati ad un nuovo appuntamento con Focus Economia per il punto della giornata economico-finanziaria. Un grande oggi una grande parentesi che dedicheremo agli Stati Uniti, perché oggi sono continuate ad arrivare notizie decisamente importanti dall'aldilà dell'Atlantico. La Banca Centrale degli Stati Uniti, la Federal Reserve, ha annunciato nel pomeriggio il lancio di un maxi piano per rilanciare il credito al consumo e alle imprese, oltre che il mercato delle cartolarizzazioni immobiliari. Si tratta di provvedimenti per 800 miliardi di dollari, di cui parleremo diffusamente. Poco fa c'è stata la conferenza stampa del segretario al tesoro uscente Henry Paulson, in attesa tra l'altro di una nuova conferenza stampa del neoeletto presidente americano Barack Obama. Cercheremo di capire anche, all'indomani della formalizzazione del piano di salvataggio di Citigroup, quale clima sta vivendo rispetto a questa iniziativa il sistema finanziario americano, perché per la verità, nonostante ieri la borsa abbia brindato notevolmente a questi interventi, in realtà non tutti plaudono molto a questo intervento massiccio da parte del tesoro americano su Citigroup, e questo sarà oggetto appunto del nostro approfondimento nella seconda parte di Focus Economia, ancora con Mario Platero, corrispondente da New York del Sole 24 Ore. Ma in apertura ci occuperemo dell'outlook semestrale dell'OCSE, il rapporto sulle previsioni economiche appunto dell'organismo di Parigi. Si traccia, anche se non ci deve stupire più di tanto, un quadro molto negativo per il 2009. Si formulano delle indicazioni molto precise per quello che riguarda il nostro paese, per cui è prevista nel 2009 una recessione molto seria. Il calo dell'economia sarà nell'ordine dell'1% del prodotto appunto interno lordo, e ci sarà una recessione seria che sarà anche prolungata. Ma cerchiamo anche di individuare qualche lato positivo di questo rapporto. Giustamente, come voi ascoltatori molto spesso sottolineate, la questione è che per l'Italia la crisi immobiliare ha colpito meno. Nessuna banca al momento ha avuto necessità di ricorrere al maxi fondo messo a disposizione dal governo, e quindi questi sono in qualche maniera fattori che ci fanno guardare con un po' più di ottimismo alla situazione appunto all'interno delle chiamiamole così, mura domestiche della nostra economia. Per quello che riguarda la borsa, oggi è stata una giornata piuttosto strana, perché è partita dopo i fortissimi rialzi di ieri. Ricorderete Parigi più 10%, Francoforte più 10%. Questa mattina l'Europa non solo consolidava i guadagni di ieri, ma nel pomeriggio, dopo l'annuncio delle nuove iniziative della Federal Reserve e del maxi piano di rilancio del credito al consumo americano, le borse di nuovo avevano accelerato ulteriormente. C'è stata anche la seconda lettura del prodotto interno lordo americano, che anche in questo caso non è stato poi così deludente, dato negativo ma comunque in linea con le attese, e addirittura le borse sono arrivate a guadagnare due punti e mezzo in Europa. Adesso invece sto notando un rapido cambio di umore. Wall Street è negativa, lo 0,7% di calo lo registra il Dow Jones, il Nasdaq è più pesante, meno 2,29%. Ancora il quadro è sparpagliato in Europa, con Parigi che cresce dello 0,48%, con Francoforte che è negativa dello 0,28%. Londra si aggrappa disperatamente alla parità, non la molla, mentre Milano, piazza peggiore d'Europa, con un calo dell'1,39% sull'S&P MIB. Ci stanno questi cali oggi dopo i rialzi di ieri, anche se non vediamo i fazzoletti per piangere come pronosticava qualche ascoltatore ieri. Consolidiamo, chiamiamolo così, questa giornata di oggi, un consolidamento dei guadagni di ieri, e in tutto questo l'euro sul dollaro sta correndo di nuovo a 1,29,36, questo è il rapporto di cambio in questo momento. Quindi tanti temi anche stasera da affrontare. Torneremo anche rapidamente sul maxi piano di stimolo per l'economia e soprattutto per il rilancio dei consumi che il governo italiano sta pianificando e che vedrà il via libera con il Consiglio dei Ministri di venerdì prossimo. Adesso le altre notizie in breve. Il petrolio petrolio a New York ha aperto in calo a 53,77 dollari al barile. E in tutto questo oggi abbiamo anche una notizia che riguarda l'industria delle materie prime in senso generale. Il gruppo anglo-australiano BHP Billiton ha annunciato che rinuncia alla propria offerta di acquisto da 62 miliardi di dollari sulla concorrente Rio Tinto in un contesto, dice la società, di deterioramento delle condizioni economiche. L'Euribor, controlliamo ossessivamente ogni giorno come si comporta la scadenza a tre mesi, sta proseguendo il ribasso oggi e appunto questa rilevazione ha mostrato una tendenza al 3,94% contro il 3,97% di ieri. Ci ritroviamo, confermiamo dunque i livelli del 3 aprile 2007. Andiamo a Parigi, il gruppo AXA ha indicato oggi che il suo utile operativo dovrebbe collocarsi fra i 3,64 miliardi di euro e non essere più in linea con quello del 2007, che era stato di oltre 4 miliardi e mezzo di ieri. Dunque un profit warning, una nuova società francese nel settore assicurativo che emette un allarme utili e i titoli stanno crollando alla borsa di Parigi di oltre il 15%. L'ex presidente del consiglio di amministrazione della banca svizzera UBS, Marcel Ospel, ha annunciato oggi a Zurigo di rinunciare a 33 milioni di franchi di indennità pari ad oltre 21 milioni di euro, insieme ad altri ex top manager dell'istituto di credito colpito dalla crisi. Lo ha riferito l'agenzia di stampa svizzera TS, oltre i due terzi dei 33 milioni spettavano a Marcel Ospel. Andiamo all'economia americana. Dicevamo, oggi abbiamo avuto diversi dati che ovviamente si sono abbattuti sulla borsa dando poi una tendenza negativa. Intanto il prodotto nazionale lordo statunitense nel terzo trimestre ha segnato una contrazione dello 0,5%. La prima stima aveva invece indicato un dato negativo per lo 0,3%. Ma l'elemento più preoccupante, anzi forse oggi ce ne sono stati due, sono stati intanto i dati relativi ai consumi dei cittadini statunitensi, che hanno registrato una frenata molto brusca del 3,7%. Si tratta della maggior contrazione dal 1980, quando l'allora presidente Jimmy Carter impose dei controlli in materia creditizia. Questo è quanto risulta appunto dalla seconda rilevazione sul PIL che abbiamo comunicato poco fa, e si tratta anche del primo declino dei consumi negli Stati Uniti dal 1991. E stanno continuando a scendere anche i prezzi delle case negli Stati Uniti. L'indicatore Schiller è sceso del 17,4% su base annua a settembre nei 20 maggiori centri urbani del paese, peggio rispetto ad una previsione media che indicava un meno 16,9%. Però facendo capolino qualche segnale positivo rispetto alla fiducia dei consumatori, che in base all'indice elaborato dal Conference Board a novembre è aumentato appunto la fiducia a 44,9 punti contro i 38,8 della precedente rilevazione. Ed ecco il piano, il super piano di nuovo annunciato oggi dalla Federal Reserve, di cui parleremo diffusamente nella seconda parte di Focus Economia. La Federal Reserve ha varato due nuovi piani di intervento per far fronte alla crisi creditizia legata ai mutui per un totale di 800 miliardi di dollari. La Fed ha annunciato che si farà carico di prodotti del credito strutturato legati ai prestiti immobiliari per 600 miliardi di dollari e che metterà a disposizione un programma da 200 miliardi a supporto dei prestiti dei consumatori e delle piccole imprese. Questo piano, annunciato e messo a punto dalla Fed e dal Tesoro, ha lo scopo di sostenere il mercato del credito a favore dei consumatori e delle aziende. Questo è quanto ha sottolineato il segretario del Tesoro statunitense Henry Paulson in un intervento a commento del nuovo intervento. Paulson ha aggiunto di essere impegnato ad utilizzare tutti gli strumenti disponibili allo scopo di preservare la solidità delle istituzioni finanziarie americane e di stabilizzare i mercati. L'attuale crisi avrà un impatto sui fondi pensione. Andiamo in Europa e l'allarme lanciato oggi dal commissario europeo agli affari economici e monetari Joaquín Almunia, certo, ha spiegato, dati il profilo di investimento spesso prudente di questi fondi, sarà un impatto relativamente più basso rispetto a quello sugli altri settori finanziari, ammesso che le attuali turbolenze sui mercati non proseguano nel tempo. E intanto comincia a concretizzarsi sempre di più il nuovo imminente taglio dei tassi di interesse da parte della Banca Centrale Europea. Non si può escludere questo taglio, ma anche se la frenata dell'economia dei 15 richiede alcuni tagli dei tassi, la Banca Centrale Europea deve risparmiare cartucce ed evitare di tagliarli troppo velocemente, lo ha detto Ewald Nowotny, numero uno della Banca Centrale Austriaca e membro del Consiglio Direttivo della BCE. Molto più drastico ed incisivo il monito invece che viene lanciato, non è la prima volta che lo fa, dalla presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia, che dice la BCE deve tagliare i tassi in modo deciso nella prossima riunione di dicembre, almeno di un punto. Sentiamola nel corso del suo intervento all'Assemblea dell'Unione Industriale di Roma. Ci sono alcuni santuari che sono intoccabili, io penso invece che vada detto con chiarezza che la Banca Centrale Europea in passato ha agito bene, ma negli ultimi mesi non ha agito bene. Ha alzato i tassi a luglio quando c'era una contrazione economica in atto, ha abbassato i tassi con troppa timidezza ultimamente, adesso ci aspettiamo davvero che a dicembre ci sia un calo dei tassi vero, profondo, non mezzo punto ma almeno un punto, perché questo può veramente aiutare la nostra economia a riprendersi, può ridare fiducia. Quindi noi chiediamo che su questo finalmente ci sia un atto di coraggio da parte della BCE. Il problema oggi non è l'inflazione, il problema oggi è la deflazione e la recessione economica, quindi su questo aspettiamo veramente un atto forte e coraggioso da parte della Banca Centrale Europea. L'ottimismo, il coraggio, la volontà e la speranza possono farci uscire in fretta dalla crisi che domina da alcune settimane. Se tutti mettessimo in campo lo stesso ottimismo, potremmo guardare con più sicurezza al futuro che ci aspetta. Lo afferma il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi prendendo la parola all'Assemblea Generale dell'Unione Industriali Romani, dove era intervenuta anche Emma Marcegaglia. Abbiamo deciso di rendere strutturale la detassazione dei premi di produttività, ha affermato ancora Berlusconi. Vi segnaliamo poi gli interventi invece di Ignazio Visco, che dice c'è il rischio concreto che la crisi finanziaria globale si traduca in una recessione grave e prolungata, lo ha detto appunto il vice direttore della Banca d'Italia in conclusione nella sua audizione alla Commissione Lavoro della Camera. Ha indicato anche un'altra cosa: i contratti nazionali dovrebbero essere orientati dagli obiettivi di inflazione fissati dalla BCE, ovvero prossima al 2% annuo nel medio termine. Una riduzione del prelievo fiscale sul lavoro evita distorsioni, incentiva la crescita, andrebbe applicata alla platea più vasta possibile. Adesso ci fermiamo, invece andiamo al rapporto OCSE diffuso questa mattina a Parigi. Il quadro tracciato dall'OCSE non è che ci potessimo aspettare molto di diverso, insomma, rispetto poi alle indicazioni che sono state diffuse. Non è proprio confortante. Perché? Perché l'OCSE dice molti fra i 30 paesi di questa area considerata si trovano o stanno per trovarsi in una recessione durevole e con un'intensità che non si vedeva dall'inizio degli anni 80. Questo è quanto indica appunto la versione preliminare dell'Economic Outlook, che parla di un blackout finanziario seguito alla bancarotta di Lehman Brothers. Vengono però visti prezzi in rapido calo, lo diceva anche Emma Marcegaglia, c'è il rischio deflazione, questa viene considerata una delle preoccupazioni più importanti in questo momento per il sistema economico, e poi sono state peggiorate, riviste al ribasso, le previsioni di crescita per Eurolandia. Per quello che riguarda il PIL dei 15 dell'area OCSE, ci sarà una espansione del prodotto interno lordo dell'1% nel 2008, una contrazione dello 0,6% nel 2009, un ritorno alla crescita dell'1,2% solo nel 2010. Vi daremo poi anche le indicazioni per quello che riguarda il nostro paese. Prima di tutto però vorrei salutare e ringraziare di essere con noi il professor Piercarlo Padoan, vice segretario generale dell'OCSE in diretta da Parigi. Professore, buonasera. Buonasera a lei. Allora, io dicevo in apertura, non è che ci potessimo aspettare indicazioni molto positive. Qualcuno parla di un 2009 che sarà terribile, e poi riprendendo anche un po' qualche concetto espresso ieri, ma che in realtà ci tocca esprimere molto spesso, non è bello parlare di una situazione di questo tipo, e molti ascoltatori molto spesso sono molto infastiditi perché continuano, insomma, come dire, a commentare come un eccesso, un nostro eccesso utilizzo di pessimismo quando commentiamo le statistiche che dobbiamo raccontare, professor Padoan, tutti i giorni. Allora, cercando di barcamenarci su un filo di lana che è molto precario e molto delicato, partendo dal quadro generale, qual è, professore, l'aspetto più rilevante che emerge dal vostro rapporto, dal vostro outlook semestrale? Il peggioramento delle previsioni sul PIL, il fatto di ammettere una recessione che sarà grave e prolungata, una disoccupazione che è vista in deciso aumento nei prossimi 2 anni, se dovesse indicarci un aspetto? Ma purtroppo devo dire che è l'insieme di queste cose che è preoccupante, perché se ci fosse solo un aspetto potremmo dire che c'è un obiettivo specifico e bisognerebbe concentrare gli sforzi su quello. È l'insieme di queste cose, come dicevo, che ci preoccupa. La recessione sarà lunga, la recessione è estesa, copre la grande maggioranza dei paesi OCSE, e la crescita dei paesi emergenti, che ci avevano aiutato a crescere tutti in questi anni, sta anch'essa rallentando. Quello che ci deve consolare però è la risposta della politica economica di tutti i paesi ad un livello e con un'intensità che non si erano mai viste prima, sia in termini di misure prese specificatamente dai governi nazionali, misure per esempio di politica fiscale, sia il fatto che queste misure sono state prese in modo fortemente coordinato, e quindi questo ci permette di dire che, malgrado che la crisi in cui stiamo adesso sarà severa, c'è una volontà da parte delle autorità di politica economica di rispondere nel modo più efficace possibile. Ecco, anche tra l'altro ricordando che domani Bruxelles dovrebbe dare il via libera anche ad un piano coordinato europeo, per quanto poi coordinamento può esserci all'interno di un'Europa, abbiamo già visto anche ieri l'incontro tra la Merkel e Sarkozy che unità di intenti è molto difficile che ci sia, professor Padoan, no? Però lei dice comunque i governi, anche perché ognuno deve agire sulla propria strada in base alle proprie caratteristiche economiche, stanno andando verso la strada giusta, stanno agendo bene in questo momento, stanno aggredendo bene la situazione. Sì. Intanto i governi si parlano e cominciano a comunicare quello che intendono fare. Poi, come diceva giustamente lei, i governi sono in posizioni diverse in termini di capacità di risposta fiscale e così via. Quindi ognuno farà quello che può fare, quello che i suoi mezzi finanziari e fiscali consentono. Non dimentichiamo poi, per quanto riguarda l'Europa, che siccome siamo un'area economica fortemente integrata, quello che ciascuno di noi fa si riverbera anche sugli altri. Quindi se c'è un'espansione in Germania, anche l'Italia ne beneficia, e viceversa, anche se l'espansione italiana potrebbe essere in ogni caso più contenuta di quella tedesca. Quindi da questo punto di vista l'integrazione europea aiuta, proprio perché i governi europei intendono prendere un'azione comune o comunque seguire una strategia comune nel fronteggiare la crisi, al di là delle specifiche diversità che si possono manifestare tra 2 paesi importanti come Francia e Germania. Vedremo allo stato degli atti quello che i 27 paesi insieme annunceranno di fare e faranno. Ecco, poi magari torneremo anche su questi aspetti, però tornando invece alle stime di crescita che avete rivisitato voi pubblicandole oggi e per quest'anno e per il prossimo anno, oltre all'OCSE, lo ha fatto anche la Commissione Europea, lo ha fatto anche il Fondo Monetario Internazionale, i maggiori organismi internazionali continuano a rivedere a ribasso le stime di crescita da qui alla fine del prossimo anno. Ci chiediamo quando questo circolo molto poco virtuoso finirà. D'altronde abbiamo ripetuto più volte come sia molto difficile in una fase come questa avere visibilità, non dico di lungo periodo, di medio periodo, a volte anche di brevissimo periodo. Detto questo, professor Padoan, secondo lei potrebbe esserci qualcosa di peggio all'orizzonte di un meno 1% di PIL in Italia profetizzato appunto per il nostro paese per il prossimo anno? Guardi, è molto gli difficile. Economisti hanno commesso molti errori nel non prevedere la crisi. Gli economisti forse potranno fare anche degli errori nel prevedere la durata della recessione. Come si dice in termini tecnici, qui i rischi della previsione sono nella parte bassa, cioè cosa vuol dire? Vuol dire che se queste previsioni che abbiamo fatto noi, che hanno fatto altri istituti internazionali, riveleranno sbagliati, è perché siamo stati purtroppo troppo ottimisti, cioè c'è la possibilità che eventi finanziari importanti come quelli che abbiamo visto nei mesi passati si riproducano nuovamente in parti del sistema finanziario globale e quindi si riverberino sulle economie. Ci possano essere degli importanti fallimenti di pezzi dei sistemi industriali. Non siamo in grado di sapere esattamente cosa succederà. Ripeto, io dico che la ragione di maggiore ottimismo in questo quadro è che i governi stanno mobilitando gli strumenti che hanno a disposizione con un'intensità e una dimensione mai viste e mai pensate in passato. Fino a poco tempo fa sarebbe stato impensabile immaginare che le autorità di politica economica avrebbero allo stesso tempo effettuato un'espansione fiscale e un'espansione monetaria. Quindi stiamo veramente usando tutte le armi a disposizione nel modo più esteso possibile. Ci vorrà un po' di tempo perché gli effetti positivi si vedranno, ma c'è anche spazio per un po' di moderato ottimismo. Forse ci siamo anche sbagliati nell'altra direzione, forse la recessione sarà un po' meno dura e un po' meno lunga di quanto pensiamo. Ecco, magari gli interventi che lei così commentava, plaudendoli, che i governi stanno mettendo in campo in questa fase, ieri abbiamo commentato a lungo a Focus Economia l'intervento, il cosiddetto pre-budget del governo britannico da 20 miliardi di sterline, che è un piano insomma che vale un punto di prodotto interno lordo del Regno Unito. È stato il primo piano poi concretamente ad essere lanciato, con il taglio dell'IVA portata al 15% e quant'altro. Ecco, secondo lei, anche alla luce di quello che mi indicava adesso, è impossibile fare delle previsioni e magari potremmo esserci tutti sbagliati e averle fatte molto peggiori di quanto poi invece non si realizzerà nei prossimi mesi, ma in ogni caso tutti gli interventi che si stanno pianificando, secondo lei, dovranno nuovamente essere riaggiornati, resi più coraggiosi nei prossimi mesi, e che quadro si apre per i conti pubblici e per i debiti pubblici nazionali, professor Padoan? Perché questo non è un elemento di poco conto. No, questo è un elemento centrale, e aggiungo anche che qui all'OCSE stiamo definendo quella che chiamiamo la nostra strategia di risposta alla crisi, e questo aspetto che è stato menzionato è centrale nelle nostre preoccupazioni. Cioè dobbiamo fare in modo che le risposte, soprattutto in campo fiscale, non pongano le basi per una situazione peggiore nel medio termine. Mi spiego. È certamente molto importante sostenere i redditi bassi, ma è certamente anche molto importante evitare di perdere il controllo della sostenibilità fiscale, perché se lo facciamo poi non saremo in grado di sostenere la crescita da qui ai prossimi 12 mesi. Questo è particolarmente vero per paesi come l'Italia, che hanno un elevato debito e quindi hanno più difficoltà a usare la leva fiscale. In ogni caso, e questa è una raccomandazione che vale per tutti i paesi, bisogna resistere alla tentazione di tagliare le spese pubbliche, gli interventi che sono quelli che sostengono la crescita, perché ricordiamoci che l'obiettivo della lotta alla recessione è rimettere la crescita in piedi il più presto possibile e in modo più sostenibile possibile. Quindi attenzione a non tagliare nei posti sbagliati dei bilanci pubblici. L'Italia, riferendoci anche a quello che stava dicendo lei, il rapporto che avete pubblicato questa mattina indica per il nostro paese una recessione più ampia e profonda di tutte quelle precedenti che il nostro paese ha dovuto affrontare, ma al contempo la crisi immobiliare, dice esattamente il vostro rapporto, ha colpito meno, e nessuna banca, e questo lo sappiamo, ha al momento presentato richiesta di accesso ai fondi messi a disposizione del governo, con l'eccezione di Unicredito, che si è ricapitalizzata da sola e al momento anche in questo caso non ha voluto, non sapremo poi se lo farà, attingere alle risorse appunto del governo. Com'è possibile che si mettano insieme questi due aspetti, professor Padoan? L'Italia avrà una crisi molto seria e molto profonda, però al contempo i due elementi scatenanti della crisi finanziaria internazionale qui da noi, lo sappiamo bene, hanno colpito meno. L'Italia avrà una crisi profonda perché fa parte del gruppo dei paesi colpiti dalla crisi. L'avrà meno nella misura in cui in Italia la bolla immobiliare non c'è stata e quindi non c'è stata la sua esplosione, e il nostro sistema di consumo delle famiglie si basa meno che altrove sull'indebitamento, sicuramente meno che altrove che negli Stati Uniti, meno che in altri paesi europei come l'Inghilterra o qualche paese dell'est europeo. Quindi direi che la situazione negativa dell'Italia è in parte il riflesso della crisi che colpisce tutti, ma anche in parte il riflesso di problemi tipicamente italiani che non abbiamo risolto, che sono quelli di una crescita endemicamente più bassa della media europea, che già è bassa. Quindi purtroppo noi adesso paghiamo una situazione negativa dovuta a fattori generali, la crisi, e a fattori italiani specifici, la nostra debolezza strutturale. Un'ultima indicazione, professor Padoan, il vostro capo economista Hebel ha detto che per affrontare la recessione occorre adottare un maggiore stimolo macroeconomico. Cosa intende esattamente? Quello che stanno facendo i governi, il piano di intervento che domani sarà varato dalla Commissione europea, oppure intende puramente lo stimolo monetario della Banca Centrale Europea, quindi l'allentamento dei tassi di interesse verso il quale si sta andando? Prossima settimana la BCE si riunisce, adotterà un nuovo taglio dei tassi e voi tra l'altro vedete i tassi intorno al 2% nel 2009, se non sbaglio. Il messaggio dell'Ocse è che ci vuole lo stimolo monetario e fiscale, come dicevo prima, e questo è un fatto di assoluta novità. I tassi di interesse delle previsioni Ocse sono collocati in linea con le aspettative di inflazione, la quale inflazione sta scendendo molto rapidamente, quindi i tassi si adegueranno a queste aspettative. Sì, ci vuole uno stimolo macroeconomico, questo è il messaggio immediato. Accanto a questo stimolo macroeconomico, aggiungo, ci vuole una attenzione alla qualità della spesa e della tassazione, in modo tale che le forze fondamentali della crescita, l'innovazione e la crescita della produttività siano il più possibile mantenute, perché questa è la chiave che ci permetterà di uscire dalla crisi, diciamo così, tra un anno più o meno. Professor Padoan, la ringrazio molto per essere stato con noi. Grazie a voi. A presto, buonasera. Buonasera. 17:37, ancora buona serata da Deborah Rosciani. Adesso siamo al nostro consueto appuntamento serale con il racconto della giornata di borsa. Andrea Fontana, Radio Core, Il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera Deborah. Allora, che giornata che abbiamo avuto oggi. Le borse stamattina sono partite, no, piuttosto bene dopo i rialzi incredibili di ieri, e ancora li ho ribaditi, più 10% per Parigi, per Francoforte, più 7% per Milano, quindi tutta l'intenzione di ampliare i guadagni appunto della seduta precedente. Poi nel pomeriggio qualche disturbo americano ha turbato l'andamento delle contrattazioni, adesso vedo che però sul finale c'è di nuovo un miglioramento. Quindi Parigi, Francoforte e Londra stanno chiudendo positivamente, con uno slancio anche a Parigi più 1,18%, Francoforte più 0,13%, Londra più 0,28% e Milano perché meno 0,6%, Andrea? Su Milano ha pesato negativamente l'andamento delle banche e soprattutto delle società che erogano servizi di pubblica utilità, quindi luce e gas, e tant'è vero che le perdite maggiori sono state quelle di A2A, ma sono andate male anche Enel, Snam Rete Gas e Terna. L'incertezza su questo ipotizzato blocco delle tariffe di luce e gas da parte del governo all'interno del piano anticrisi, piano che sarà esaminato e forse già licenziato venerdì nel Consiglio dei Ministri, questa incertezza ha pesato sui titoli appunto delle utilities e ha finito per pesare anche sul listino milanese, quindi sugli indici. Quindi questo insomma ha motivato il calo per esempio del 4,76% di A2A, il calo del 2,61% di Enel, adesso non riesco a trovare al volo Terna, ma anche per Terna appunto è stata una giornata difficile. Poi abbiamo avuto un calo ancora per segnalare i peggiori del 4,51% per quello che riguarda Pirelli, Unicredito meno 3,73%, Mediobanca meno 3%, Unipol meno 2,95%, in discesa anche il settore assicurativo, Fondiaria meno 2,90%, Mediolanum meno 2,86%, Enel già detta, Snam Rete Gas meno 2,52%. Non vorrei rubarti tutti i titoli, Andrea, magari andiamo dall'altra parte della classifica. Saipem più 5,70%, chissà, forse su questo leggero di nuovo incremento del prezzo del petrolio, ma questa settimana probabilmente l'OPEC taglia. Prysmian più 5, Finmeccanica più 4,20, ecco Terna. Ah, Terna ha fatto più 3,73% alla fine. Sì, c'è stato un ecco perché non la trovavo tra i peggiori. Esatto. C'è stato un improvviso rimbalzo di questo titolo legato agli ordini finali, è un titolo che solitamente si muove poco, ma che in queste sedute particolarmente nervose del mercato sta evidenziando anch'esso una certa volatilità. Questa mattina stava andando bene, poi improvvisamente è sceso fino a toccare i 2,29 euro, per poi risalire e toccare 2,5 in chiusura. Una forte quindi nervosismo su questo titolo, che con questo balzo finale si è un po' distinto dal resto delle utilities, che invece, come abbiamo detto, sono state penalizzate da quella incertezza rispetto alle tariffe, tant'è vero che oltre a quelle dell'SP MIB sono andati male anche titoli come Edison, come Acea e appunto altri titoli del settore. Mm-hmm. Luxottica più 3,54, continuo a leggere i titoli così accontentiamo gli ascoltatori che sono stati così ben abituati da Sebastiano Barisoni nella lettura di tutti i 40 titoli che compongono l'S&P MIB. Banco Popolare più 3,15, Atlantia ex Autostrade più 3%, qui mi pare che però il titolo abbia brindato ad un'altra cosa oltre a... sì Andrea? Oltre alla questione delle tariffe. Esatto, perché il blocco dei pedaggi autostradali potrebbe essere un'ipotesi che viene vagliata anche in queste ore. Esatto, ed era l'ipotesi che aveva già appesantito notevolmente il titolo nella seduta, vi ricorderete, di venerdì, dove il titolo aveva perso oltre il 10%. Invece diciamo che l'aspetto negativo che viene segnalato è certamente questo prestito a 1 miliardo che è stato ieri annunciato da parte della Banca Europea per gli investimenti, destinato appunto ad Autostrade per l'Italia e destinato in particolare alla costruzione della terza corsia dell'autostrada A14, diciamo un finanziamento che quindi va nella direzione di investimenti e di continuazione dell'attività importante per Atlantia. Rimane questa spada di Damocle delle tariffe, ma fino a venerdì insomma il titolo probabilmente sarà destinato a una certa volatilità. Seat pagine gialle più 2,87%. Per quanto riguarda Seat è già la seconda seduta in cui il titolo cerca di risalire la china, è un altro titolo molto nervoso. Quello che si attende che in settimana, come è stato riportato oggi dalla nostra agenzia Radio Cor, in settimana sarà è stato calendarizzato un CDA di giovedì, un CDA straordinario dove verranno affrontate appunto le operazioni importanti per il rilancio del gruppo che lo ricordiamo da tempo soffre per un indebitamento piuttosto importante e che ha portato gli azionisti di riferimento, cioè 4 fondi di private equity, per Mira, investitori associati, CVC e BC Partner, a valutare diverse opzioni per il rilancio del gruppo. Tra queste, un aumento di capitale, si parla di 200-250 milioni di euro. Vedremo se giovedì sarà affrontato questo argomento e se emergeranno novità. Su questa attesa il mercato è tornato a ricoprirsi su un titolo fortemente penalizzato negli ultimi mesi. Intanto volevo arrivare a parlare di Fiat. Andrea, leggo dalle agenzie proprio da Radio Cor, quindi scritta al tuo collega: stop forzato alla produzione di auto per la casa automobilistica Volkswagen e per Porsche, sua futura proprietaria, a causa della crisi di vendite. Alla Volkswagen, numero uno dell'auto in Europa, la produzione si fermerà per 3 settimane, dal 18 dicembre all'11 gennaio, nel principale sito produttivo di Wolfsburg, e alcuni settori resteranno fermi anche il 5 dicembre. Questo tanto per farvi capire a che punto siamo nella crisi dell'industria automobilistica. Fiat, tra l'altro, Marchionne ha annunciato la possibile prossima produzione di auto low cost, titolo del lingotto oggi in rialzo dell'1,46%. Su che notizie, Andrea? Queste sono le indicazioni, diciamo che in un momento in cui appunto la crisi assume degli aspetti tangibili come quelli da te ricordati Volkswagen, ricordiamo le scorse settimane come Renault Peugeot avevano dato il via a provvedimenti di questo tipo, di chiusura parziale o totale di alcuni impianti. Diciamo che un titolo penalizzato come Fiat ha beneficiato di quelle che sono appunto le indicazioni su uno spostamento o comunque sull'attenzione, su uno spostamento del focus di business su alcune auto low cost, come quello annunciato ieri da Marchionne, secondo cui Fiat ha intenzione di lanciare 3 nuovi modelli entro il 2010-2011 con marchio diverso da quello di Fiat. Soprattutto questa volontà è stata apprezzata dagli analisti. Prima si pensava che Fiat lanciasse low cost solamente nei mercati emergenti, in particolare Brasile e India. Ora questa scelta sembra quasi obbligata anche di qua, esatto, anche nell'Europa occidentale. Potrebbe essere un modo per affrontare la crisi, ecco perché il mercato lo ha apprezzato, anche se con un andamento alterno del titolo che ha guadagnato, è salito fino a 5,4 euro oggi e poi ha un po' ridotto i guadagni chiudendo a 5,2. Andrea, grazie molte per essere stato con noi, buona serata. Buona serata a voi. Volevo intanto comunicare questa notizia alla mia collega Barbara Bianchi: l'euro sul dollaro sta a 1,3026 e questo insomma ci fa guardare alla settimana scorsa con un po' di amarezza, sì, infatti, e poi magari raccontiamo ai nostri ascoltatori anche il perché. Annunciato più volte in questi giorni, anche se poi magari ci rientreremo nel dettaglio venerdì quando avverrà la formalizzazione da parte del Consiglio dei Ministri, il governo si appresta a varare questo piano di sostegno ai consumi per naturalmente le famiglie, un piano a 360 gradi che va dal blocco delle tariffe di luce, gas, autostrade e ferrovie, un possibile taglio delle accise sui carburanti per il periodo natalizio, bonus cash per famiglie con pensionati o figli e redditi bassi sotto forma di assegno postale, insomma un intervento massiccio che riguarda anche le imprese, riguarda anche il mondo del lavoro. E oggi su questo piano è tornato il premier Silvio Berlusconi parlando all'Unione Industriale Romana, appunto ovviamente affrontando anche il tema della crisi finanziaria mondiale. L'Italia, ha detto Berlusconi, può essere più ottimista di altri. Intanto per le infrastrutture a Cipe si parla appunto di interventi per 16,6 miliardi di euro, sentiamolo. Bisogna mettere mano alla realizzazione di un grande piano di infrastrutture. Nel precedente governo avevamo approntato un piano per 125 miliardi di euro, oggi la necessità rende ancora superiore questo importo. Abbiamo da farlo e dal prossimo CIPE vi annuncio che cominceremo con 16,6 miliardi da spendere immediatamente, ed abbiamo ipotizzato un sistema che possa farci superare tutti i tempi drammaticamente lunghi, più di 2 anni da quando si prende una decisione e da quando si aprono i cantieri. Oltre agli investimenti nell'ambito delle infrastrutture, abbiamo deciso di rendere strutturale la detassazione dei premi di produttività, ancora Berlusconi. Abbiamo deciso di rendere strutturale la detassazione dei premi di produttività e sugli straordinari. La detassazione dei premi di produttività forse non è ben ancora valutata per quello che può comportare. Un'azienda con il proprio collaboratore può, lasciando invariato lo stipendio sino all'anno precedente, decidere degli aumenti legati a maggiore impegno o a raggiungimenti di livelli aziendali di produzione e di produttività, e su questo incremento peserà non il 46% che purtroppo pesa sulla restante parte primaria della retribuzione, ma soltanto il 10%. Si passa in questo modo da quella che è la contrattazione aziendale nazionale ad una possibile contrattazione aziendale. Stiamo esaminando la possibilità di detrarre dei punti di IRAP dall'IRES. Quest'IRAP, sapete che siamo l'unico paese che ce l'ha, e è una imposta davvero unica e di logica. Abbiamo confermato la nostra volontà di introdurre l'IVA di cassa, cioè il pagamento dell'IVA non più all'emissione della fattura, ma al ricevimento del pagamento della fattura stessa. Dall'IVA di cassa ritorniamo invece all'incontro avuto ieri sera con le parti sociali per presentare il piano di rilancio dei consumi. Ieri ho avuto risposte positive dai miei interlocutori, ho segnato degli appunti prendendo in considerazione i suggerimenti e spiegando che ci saranno aiuti per le imprese e le famiglie. Poi Berlusconi ha detto lo sciopero della CGIL fissato, come sapete, quello generale per il 12 dicembre è un errore. Stasera ho convocato una riunione con CGIL e CISL UIL per vedere se in un momento così drammatico possiamo fare il punto per recuperare unità di intenti sulla riforma degli assetti contrattuali. Ecco la presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia. Proprio a dimostrazione che noi non siamo interessati a un accordo separato, anzi cercheremo fino all'ultimo di perseguire un accordo tutti insieme, io stasera ho convocato una riunione chiamando CGIL e CISL UIL al tavolo per rifare il punto della situazione e vedere se davvero in un momento così drammatico, in un momento così difficile, ritroviamo un'unitarietà di intenti, andiamo avanti tutti insieme. È evidente però, questo io lo dico fin dall'inizio, io mi auguro e lavorerò fino in fondo, fino all'ultimo momento per perseguire questo obiettivo, però noi non possiamo fermarci, non possiamo farci porre dei veti, non possiamo stare fermi, in questo momento noi dobbiamo fare tutti gli sforzi per modernizzare il Paese, per andare avanti e per non rimanere fermi. Quindi questo impegno noi lo porteremo avanti e auspichiamo, e auspico anch'io, che invece di parlare di sciopero generale ci sia invece la volontà di lavorare insieme sui temi che riguardano il lavoro, le famiglie e le imprese, in modo costruttivo, in modo forte, perché in un momento come questo di tutto c'è bisogno, tranne che il conflitto, tranne che separarci, tranne che andare ognuno nella propria direzione. Invito non tanto colto dal leader della CGIL Guglielmo Epifani, non è uno sciopero a prescindere per ottenere qualcosa, lo sciopero resta confermato, ha detto nel corso di una conferenza stampa indetta dall'organizzazione sindacale. 4 giorni fa il direttore di Panorama mi ha chiesto: ma è uno sciopero a prescindere? Risposta: no, è uno sciopero per ottenere delle cose. Se otteniamo delle cose non c'è lo sciopero, se non le otteniamo c'è lo sciopero. E non capisco perché oggi ritornino di nuovo tutte le critiche su uno sciopero che noi abbiamo già proclamato, che non abbiamo disdetto. Io credo che sia corretto aspettare formalmente le decisioni del Consiglio dei Ministri. Confermo che se le decisioni del Consiglio dei Ministri hanno coerenza con il cuore delle nostre proposte, ne trarremo delle riflessioni. Se il Consiglio dei Ministri e quindi il Governo dovesse fare altre scelte, trarremo ovviamente altre riflessioni. Così fa una grande organizzazione sindacale. Non si fa tirare la giacca da nessuno, è convinta di quello che ha deciso per quanto riguarda il merito e le priorità e le iniziative di sostegno. E quindi ci atterremo con grande trasparenza e rigore a questa scelta. E infine l'ultimo commento è quello che vi facciamo ascoltare, affidato a Pierluigi Bersani nel corso delle dichiarazioni di voto sul provvedimento di questa mattina in aula alla Camera, il provvedimento relativo al sostegno alle banche. Quello dell'esecutivo vuole fare per famiglie e imprese una sorta di contentino, un regalo di Natale, sentiamolo. Ci avete detto fin qui il decreto non è il posto, la finanziaria non è il posto, vorremmo capire ma dov'è questo posto dove si può discutere di crisi. Io credo che la verità sia questa, anzi le due verità siano queste. Primo, che voi intendete ridurre l'intervento sulla crisi a una specie di pacco di Natale, di regalo di Natale. Secondo, voi non avete ancora ben chiaro cosa mettere in questo pacco di Natale. E ha parlato poco fa anche Renato Brunetta, il ministro della funzione pubblica, al suo intervento a Business International a Roma ha detto che rimane ancora l'ipotesi di detassare le tredicesime ma solo per i lavoratori a basso reddito. Insomma, molta carne al fuoco per l'esecutivo in questo momento, speriamo di darvi un quadro conclusivo dei provvedimenti presi per rilanciare l'economia dopo il Consiglio dei Ministri di venerdì prossimo. Dice ancora buonasera da Deborah Rosciani, ben ritrovati a Focus Economia, una seconda parte in cui faremo il punto di nuovo sulle nuove consistenti importanti misure che sono state annunciate negli Stati Uniti dalla Federal Reserve, dal segretario al tesoro Henry Paulson, segretario uscente, perché come sapete ieri il presidente Barack Obama ha formalizzato la nomina del nuovo segretario al tesoro Tim Geithner. E tra l'altro Barack Obama sta di nuovo tenendo una conferenza stampa a Chicago in queste ore, in cui sono state formalizzate altre nomine, quella che è arrivata oggi è quella di Peter Oszag, nome difficilissimo, pieno di consonanti, come direttore dell'Office and Management and Budget della Casa Bianca. Di tutto questo anche discuteremo tra poco con Mario Pratero, corrispondente da New York del Sole 24 Ore. In particolar modo ci focalizzeremo sulle misure per far ripartire il mercato del credito al consumo, perché si tratta di un intervento da 800 miliardi di dollari. Pensate la Fed quante risorse sta mettendo in campo in questo momento, ma continua a far discutere negli Stati Uniti, e non poco, il piano di salvataggio che è stato compiuto nel fine settimana nei confronti di Citigroup, la più grande banca mondiale. Il tesoro americano ha lanciato questo, che è stato definito un salvagente, da 300 miliardi di dollari, ma insomma qualcuno dice torna ancora a far discutere la questione del cosiddetto azzardo morale, dei conflitti di interesse, i soci non hanno pagato. Insomma, faremo il punto della situazione anche su questo tra poco. Adesso intanto però, siccome oggi sull'Europa è arrivata un'altra tegola, e cioè il nuovo rapporto dell'OCSE su come potrà essere l'andamento dell'economia nel 2008 e nel 2009, ecco, andiamo anche a riepilogare questi dati diffusi oggi. Molti fra i 30 paesi dell'OCSE si trovano o stanno per trovarsi in una recessione durevole, con un'intensità che non si vedeva dall'inizio degli anni 80, lo dice appunto l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico nella versione preliminare del suo Economic Outlook, che parla di un blackout finanziario seguito alla bancarotta di Lehman Brothers. Però l'inflazione nei 30 paesi membri scenderà rapidamente, alcuni paesi corrono il rischio, per quanto limitato, di una deflazione, e l'OCSE prevede in particolare un ritorno della deflazione in Giappone. Sono state poi peggiorate ulteriormente le previsioni di crescita per Eurolandia. Viene prevista un'espansione del prodotto interno lordo dei 15 paesi considerati dell'1% nel 2008, una contrazione dello 0,6% nel 2009, un ritorno alla crescita solo nel 2010 pari all'1,2%. E nelle attuali condizioni di estremo stress finanziario, accanto alla politica monetaria, i paesi che hanno spazio di manovra in termini di bilancio dovrebbero agire sulla leva fiscale. Questo è il suggerimento dell'OCSE, e che tra l'altro va a guardare molto attentamente anche cosa succede in Italia, dove indica la recessione iniziata all'inizio dell'anno. È probabile che si trascini per gran parte anche del 2009, come in molti altri paesi dell'OCSE. L'Italia, che è entrata in una recessione più ampia e profonda delle precedenti, dispone di un margine di manovra per stimoli fiscali, lo ha dichiarato il capo economista dell'OCSE Hebel. Gli italiani tirano la cinghia, le famiglie italiane probabilmente resteranno caute sui consumi, e la crescita dei consumi potrebbe non riprendere se non alla fine del 2009. Oggi sono arrivate altre notizie molto importanti dagli Stati Uniti. La Federal Reserve, la banca centrale americana, ha varato due nuovi piani di intervento per far fronte alla crisi creditizia legata ai mutui, per un totale di 800 miliardi di dollari. La Fed ha annunciato che si farà carico di prodotti del credito strutturato legati ai prestiti immobiliari per 600 miliardi di dollari, e poi metterà a disposizione un programma da 200 miliardi a supporto dei prestiti dei consumatori e delle piccole imprese. In più, la Federal Reserve rileverà 100 miliardi di dollari di obbligazioni delle due agenzie di mutui, Fannie Mae e Freddie Mac, di Federal Home Loan Banks. Oltre a questa somma, la Fed ha messo a disposizione 500 miliardi per rilevare titoli legati ai prestiti immobiliari, che lo stesso fanno capo alle ex agenzie appunto parastatali. Ma non c'è solo questo, c'è anche il varo del maxi piano per sostenere il credito al consumo. Come sapete, se ne parla da tempo, la prossima bolla destinata a scoppiare negli Stati Uniti, ormai un allarme plurilanciato, è quello delle carte di credito. Oggi Henry Paulson, il segretario del Tesoro uscente, ha annunciato appunto anche un intervento in questo campo. Sentiamo Paulson. Durante tutto il periodo di turbolenza sui mercati, la nostra principale attenzione è stata di stabilizzare il sistema finanziario e di sostenere il sistema dei prestiti, elemento vitale della nostra economia. Il piano annunciato oggi e messo a punto dalla Fed e dal Tesoro ha lo scopo di sostenere il mercato del credito a favore dei consumatori e delle aziende. Niente è più importante per superare la crisi nel settore immobiliare che garantire la disponibilità dei finanziamenti. Ci vorrà del tempo per superare le difficoltà dei mercati e della nostra economia, anche perché continueranno a emergere nuove sfide. Io e i miei colleghi siamo impegnati ad utilizzare tutti gli strumenti disponibili allo scopo di preservare la solidità delle nostre istituzioni finanziarie e di stabilizzare i nostri mercati. E tutto questo ai fini di minimizzare l'impatto negativo sull'economia reale. Il programma da 200 miliardi di dollari è solo il punto di partenza e potrà essere esteso e ampliato. Quella che stiamo vivendo è una fase storica. Si tratta di una situazione che succede una o due volte nell'arco di un secolo. E quello che sicuramente abbiamo osservato negli ultimi mesi è che non si possono prevedere gli eventi. Voglio però sottolineare ancora una volta che senza alcun intervento ci saremmo trovati in una situazione ben diversa da quella attuale. Sarebbe ingenuo pensare che una sola legge possa immediatamente risolvere una crisi di questa portata. Occorre usare tutti i mezzi a disposizione. Ora abbiamo la capacità di farlo e lavoriamo quotidianamente per migliorare il TARP e ridurre il numero di pignoramenti. Timothy Geithner è presidente della Federal Reserve Bank di New York. Con lui abbiamo lavorato insieme come una squadra. Geithner ha lavorato con noi per tutto il fine settimana. E tutto questo in una giornata in cui è stato comunicato il dato sul prodotto interno lordo del terzo trimestre. La nuova stima è stato rivisto in peggio, meno 0,5%. Abbiamo altre statistiche sui consumi del terzo trimestre che sono bruttissime e un altro dato molto pessimo riguarda i prezzi delle case che in settembre, secondo l'indice Schiller, sono scesi del 17,4%. Mario Platero, siamo pronti al nostro nuovo bollettino di guerra questo pomeriggio? Ecco, ogni giorno al fronte, ogni giorno si procede. Parlavamo ieri della necessità di non essere troppo pessimisti. Beh, direi che una reazione così forte e marcata da parte delle autorità, un gioco d'anticipo così plateale come quello che abbiamo visto oggi, altri 800 miliardi di dollari, significa che evidentemente ci si aspetta che qualcos'altro possa succedere. Il mercato inizialmente aveva reagito molto bene, era un rialzo abbastanza forte, adesso sta digerendo il fatto appunto che, come ha detto lo stesso Paulson, le cose non si rimetteranno a posto dal giorno alla mattina, ci vorrà tempo e siamo tornati in territorio appena leggermente negativo, in un contesto in cui, ricordiamolo, la volatilità è tale che poi basta mezz'ora di qualche notizia, umore per cambiare drasticamente la direzione. Ma veniamo a questi piani e direi che il giorno dopo Citigroup era necessario dare un segnale che si andava anche a coprire a valle e non solo a monte, non si andava a salvare solo la grande istituzione e ricordiamolo, i vertici della grande istituzione che sono poi rimasti al loro posto, ma si andava anche a risolvere il problema di istituzioni che hanno un ruolo, un rapporto più diretto con i consumatori. È molto mirato ad aiutare i consumatori nel senso più spicciolo del termine, cioè gli individui. Ci sono dei messaggi chiari per le istituzioni di risolvere alcune delle situazioni difficili sul fronte dei mutui, un messaggio questo che è stato dato peraltro anche a Citigroup, appunto di riaprire dei negoziati con coloro che sono esposti e che faticano ad arrivare alla fine del mese. Quindi da una parte si va avanti, come dicevamo anche ieri, c'è continuità, non c'è un vuoto di potere, l'amministrazione attuale continua a lavorare, c'è stato un cambiamento, ecco, ricordiamo, sono dettagli non secondari che ci confermano quanto evidentemente la nuova e la vecchia amministrazione stiano lavorando insieme, perché non più tardi della settimana scorsa Paulson avrebbe detto che non avrebbe fatto più nulla, che si sarebbe fermato, che avrebbe di fatto lasciato le redini in mano alla prossima amministrazione, non avrebbe fatto alcun piano di salvataggio nuovo, non avrebbe toccato i fondi del TARP e quindi si sarebbe, diciamo, astenuto dal giocare d'anticipo su decisioni che toccavano altri. Invece evidentemente ha già cambiato idea, e se lo ha fatto è perché c'è un accordo di dietro le quinte, lo ha confermato poco fa lo stesso presidente eletto Barack Obama, ha fatto un breve intervento, ha parlato della necessità per la sua amministrazione di tornare al rigore di bilancio, di bilancio nel senso di voce di spese. Potrebbe sembrare ironico che il presidente eletto dica questo nel giorno in cui si decide all'improvviso di sborsare 800 milioni di dollari o comunque rendere disponibili 800 miliardi di dollari da parte delle autorità federali. Non si sa peraltro dove questi soldi saranno recuperati, ci saranno probabilmente delle emissioni obbligazionarie. Però Obama ha voluto focalizzarsi molto sulle voci di spesa inutili, proprio perché c'è un'emergenza, proprio perché si dovranno utilizzare più fondi di quelli disponibili per salvare l'economia nel suo insieme, bisognerà tagliare voci di spesa inutili. Vi faccio un esempio che ha fatto lo stesso Obama, e cioè c'è per esempio agricoltori miliardari che stanno molto bene, hanno ricevuto fondi per 49 milioni di dollari in aiuti che erano totalmente inutili, non ne avevano bisogno e in sostanza quello era uno spreco. Terzo punto, però, diciamo il lato un po' oscuro che emerge al di là della finanza e dell'economia, è che soprattutto il salvataggio Citigroup il giorno dopo così desta qualche perplessità per il modo in cui è stato condotto. La squadra che lo ha sistemato, incluso il segretario al tesoro in pectore, cioè Geithner, è una squadra di persone che ha lavorato sempre insieme e che si conosce, ricordiamolo, Bob Rubin, punto di riferimento di Citigroup, era stato presidente di Goldman Sachs, Paulson, segretario al tesoro, a sua volta era stato amministratore delegato di Goldman Sachs, i due hanno lavorato insieme, Geithner aveva lavorato al Dipartimento al tesoro quando Rubin era segretario al tesoro, quindi sono persone che si conoscono molto bene e nessuno mette in dubbio la necessità di salvare un gigante come Citigroup. Molti mettono in dubbio il metodo con cui Citigroup sia stata salvata. Il fatto che le azioni siano balzate del 60%, beh, direi che premia in qualche modo gli azionisti, premia il management che ha molte di quelle azioni e soprattutto premia quel management che oggi resta ai vertici, nonostante sia poi all'origine di molti degli errori che sono stati compiuti. Quindi insomma dibattito molto intenso sulla questione relativa al tema su cui hai scritto moltissimo tu, Mario, quello dell'azzardo morale. Mi stavo chiedendo però, riguardando il piano varato oggi dalla Federal Reserve, quanto ci fosse di simile rispetto a quel famoso piano Paulson che invece è stato varato e poi clamorosamente fallito qualche settimana fa, sul quale anche in congresso appunto c'è stato un grande scontro, perché poi in qualche maniera qua si ritorna a parlare di rilevare asset tossici, no? Delle, per esempio, banche parastatali, ma è un ritorno, adesso ci stavo pensando così mentre ti ascoltavo, Mario, oppure non hanno nulla a che fare le due cose? Diciamo, noi siamo così un po' bersagliati, perseguitati da queste sigle, questi acronimi. Ebbene, allora, il TARP resta, il TARP era il programma per rilevare i titoli tossici. In teoria la gran parte dei fondi approvati dal Congresso dovevano essere destinati a rilevare titoli tossici. Il modo in cui lo si sta facendo adesso è lo si sta cercando di dirigere invece che all'acquisto di titoli di portafoglio detenuti dalle istituzioni e dalle banche, mirandolo più invece verso coloro che sono i detentori del debito a valle delle banche, e di questi titoli si sta occupando la Federal Reserve. E scusate, c'è invece un altro acronimo, cioè il TALF, che è più direttamente legato, appunto, che è quello che è emerso appunto in questi giorni, e che è mirato più direttamente appunto al consumo. Quindi sono due binari paralleli, ma il TARP e il TALF, cioè Term Asset Backed Securities Loan Facility, e quindi è più mirato sul prestito, è più mirato sul consumatore, sono due strumenti che restano a disposizione e che operano in modo parallelo. Il punto centrale di quello che ha detto oggi Paulson è che, a differenza di quello che capitava alcune settimane fa o un paio di mesi fa, prima che ci fosse questa approvazione di questa facility da parte del Congresso, non c'era nulla. Oggi ci sono gli strumenti, e gli strumenti sono stati messi a punto, sono a disposizione dell'executive branch, sono a disposizione dei governanti e hanno un discreto margine d'azione per poterli usare nei tempi e nei modi che siano più appropriati alla sfida del momento. Chiarissimo, evidentemente i rilievi anche mossi dal Congresso hanno portato a questo risultato, cioè quello di adottare comunque degli strumenti concreti che avessero appunto un'utilità e un obiettivo più preciso. Mario, io devo ringraziarti e salutarti perché il tempo a nostra disposizione è scaduto. Io intanto volevo anche segnalare che dal prossimo gennaio, con la revisione trimestrale, le bollette dell'elettricità e del gas diminuiranno rispettivamente del 4 e dell'1%, con riduzioni che saranno ancora più significative in aprile e giugno, l'ha annunciato il Ministero dello Sviluppo Economico Claudio Scajola. È tutto, a domani.